A quanto pare i delfini dormono soltanto con metà cervello. Dal momento che devono tornare in superficie per respirare, a qualcuno, là dentro, tocca star sveglio. L'evoluzione ha invece imposto per noi una dormita totale. Mentre dormiamo è più veloce il processo di divisione cellulare, mentre dormiamo sintetizziamo alcuni neurotrasmettitori particolarmente benefici, mentre dormiamo reintegriamo eventuali deficit di ordine fisiologico, mentre dormiamo poi sogniamo e sognando, secondo alcune teorie, mettiamo un po' d'ordine nelle esperienze della giornata, magari cancellando dalla memoria di lavoro quel che proprio non ci serve, almeno sull'immediato. Circa il prendere sonno, le idee correnti sono varie e fantasiose. Allora c'è chi consiglia il pediluvio, chi il bagno caldo, chi la passeggiata, il latte e miele, andare a dormire sempre alla stessa ora, tenere la stanza fredda. Chi la fa più scientifica, scientifica si fa per dire, può scegliere fra numerose tecniche, dalla meditazione trascendentale all'agopuntura, dalla riflessologia plantare all'automassaggio, automassaggio in quasi tutte le parti del corpo, tranne quelle che per lo più si vorrebbero per l'appunto massaggiare, perché quelle, come diceva Mao già nel 68, sono controindicate. Soprattutto comunque, e qui sono d'accordo in tanti, per dormire occorre cercare di produrre una sorta di vuoto mentale, scacciando i cattivi pensieri come fossero moleste zanzare. E infatti, così come dalle moleste zanzare ci si salva soltanto, lo sappiamo, centrandole con una martellata, si riesce a dormire, se davvero abbiamo cattivi pensieri, se sono davvero cattivi, si riesce a dormire soltanto con una martellata in testa. Se ho la buona sorte di non essere oppresso dal fascismo opprimente del pensiero unico, se sono nella condizione di poter scegliere, più che al vuoto mentale, che mi sembra una metafora pericolosa, più che al vuoto mentale mi dedico all'anarchismo correlazionale. Salto di palo in frasca, in altre parole, lascio libero corso all'associazione dei pensieri più disparati, perdendone serenamente consapevolezza, nella speranza anche di non perdermi qualcosa. E non sono rare le volte che, mentre sto per assopirmi, mi dico che sì, un attimo prima mi era venuta una buona idea e che forse con un po' di pazienza potrei anche recuperarla, ma se mi ci metto davvero è molto probabile che non dorma più, e dunque ho imparato che nessuna lasciata è persa e che se davvero era buona, prima o poi ritorna. Una certa tradizione iconologica invece ha tramandato l'idea del contare le pecorelle. Contare le pecorelle mentre passano attraverso un cancelletto, mentre saltano un ostacolo. Come tutte le tradizioni, ovviamente non è del tutto priva di fondamento. Nel contare c'è la ripetizione, e sappiamo che nella ripetizione c'è il principio dell'ipnosi. Non a caso il medico che ricorre a questo metodo invita il paziente a contare. Ma nell'idea delle pecorelle c'è anche di più, perché c'è anche l'uguaglianza. Infatti, se si facesse passare una pecorella bianca subito seguita da una nera e poi da una rossa e poi da una gialla, sempre ammettendo che esistano pecorelle così, e poi si allungasse via via la lista, le unità contate non risulterebbero più omogenee e già la differenza iniziale indurrebbe l'attenzione a rifocalizzarsi in attesa di ulteriori discriminazioni. Una tradizione meno iconologica e più farmaceutica invece vorrebbe vantare i meriti della valeriana. È probabile che debba il suo nome ad un toponimo ungherese dove questa pianta erbacea perenne crescerebbe senza ritegno, ma sembra proprio certo che dalla sua radice si possa estrarre un principio attivo che ha la proprietà di sedare parzialmente il sistema nervoso centrale, favorendo il sonno. Queste credenziali ideologiche di naturalità fanno sì che l'industria farmaceutica punti sulla valeriana per accalappiare quel buon 30% almeno di esseri umani che alla faccia delle buone ragioni che hanno spinto l'evoluzione a diventare il sonno, maledicono le loro insonnie notte dopo notte che Dio manda in terra. Eccomi così di fronte ad un grande manifesto che illustra le ottime virtù dell'ultimo prodotto del genere. Nella metà a sinistra c'è una bella ragazza allegra per niente che giochicchia con una pallina rossa. Nella metà a destra c'è la stessa bella ragazza che ronfa serenamente nel sonno dei giusti e la pallina rossa giace immota accanto al cuscino. Per porre il rapporto di causa ed effetto non ci vuole come al solito un genio della semiologia. La ragazza soffre di insonnia, ha dato retta alla pubblicità, si è ingurgitata in qualche modo il portento alla valeriana ed ha conseguito il suo scopo. Le pecorelle non ci sono e in una riproduzione realistica difficilmente avrebbero potuto starci. Si possono fotografare le belle ragazze, ma non le pecorelle che le belle ragazze si rappresentano mentalmente. Ma c'è la pallina rossa e riflettendoci si capisce che questa pallina svolge la medesima funzione. La pallina rimbalza. Ovvero si ripete in quanto percezione e ad ogni balzo rimane la stessa, non cambia colore, non cambia forma. Gli elementi costitutivi fondamentali della funzione delle pecorelle sono rispettati. La differenza, una differenza che non fa dormire, sto parlando di me, non della ragazza, la differenza sta altrove. La seconda metà del manifesto, come l'altro emisfero del delfino che dorme, provvede a funzioni primarie, in questo caso non tanto a carattere informativo o fisiologico, quanto a carattere ideologico. Mentre sta giocando insonne con la sua pallina rossa, la ragazza indossa un'elegante sottoveste di seta. Sottoveste di seta che quando si è finalmente addormentata non c'è più, e non c'è più niente di niente se non forse quella goccia di Chanel numero 5 che Marilyn Monroe dichiarava di indossare la notte prima di andare a letto. Almeno per quel tanto di corpo che ci è dato di vedere, la fanciulla è nuda e nella sua nudità rivela tutte le contraddizioni del sistema di cui fa parte. Il fatto che se non dormiva perché aveva caldo, la valeriana è pleonastica. You brought me by it, but I'll never learn to laugh it in my good-natured way.